Vabbè, ma questi hanno che fanno molto radute così, dicono che non sono molto quelle, capito? A me mi soddisfa, mi piace come moto, è comoda, soprattutto per anche per fare lunghi viaggi è comoda perché c'è la sera che ti appoggi, se viene in casa Zappa e te lo fa vedere come si guida quella moto, già un po'. Ma Zappa, hai mai visto lei? Anche io lo conosco, c'è anche tra gli amici di Facebook ce l'ho. Allora, le ha messo un motore di 600, un motore 600 dietro, praticamente dove tu hai la cabina dietro, e le ha messo il motore di una 600 da coso, non so se sia una Yamaha 600. Ma tu mi fai cosa avanti con questa moto, ui, la fa andare a due ruote, gli ha tolto il vetro da davanti, praticamente lui esce fuori la moto camminando. Sotto una rotella? Esatto, è un Kawasaki, esatto. Di un 600, cioè, guarda, fai tutti i culo, la fa andare a due ruote, guarda, è di quelli tipo stato, ben però in picco. Di Daredo invece che avere Lucascioni va al motore. Ma io non sono sulla Vespa, mentre il motore di Cavazzacci ce l'aveva sulla pedana. Che umani! Adesso ti ascolto con due antenne differenti, dai. Vediamo un poco, è con due radio differenti, però questa qui è un po' vicino a Vara, questa che sono adesso, Gianni, ho cambiato la radio, capito? K-gappa. Vabbè. Questa qui che cos'è? Iaisu. Sì, questo è la Iaisu. Questa è bella lo stesso, è bella lì. Guarda lì, vedete che tengo roba in sottofondo, mi guarda. Vedi, questo fa sempre una bella per la radio, guarda come va la radio, due o tu. Aumentata non mi piace, Gianluca, quando è troppo alta va a distorcere. Va a distorcere, allora lo mettiamo a metà, guarda. Così è appena appena più sopra della metà del mitigini, capito? Perché se la metto tutto il mitigini fa così, guarda, vedi? Ok? Lo mettiamo un pochettino più su della metà, ok? Con il processore in dritto. Così è perfetto. La metà perfetto proprio. Non i vidri idraulici, che si fanno i vidri idraulici. E allora è 40 abbondante. Vi devo salutare, devo andare a prepararmi che è già un bel tardi. Ci sentiamo dalla macchina dopo. Sì, adesso ha detto che suona un stilo, dove si va sempre un numero uno. A chi ha trovato un telefonino di Sicovies, no? Però non riesco a comprendere ma che diavolo è, ha ragione. Ecco qua. Ok, dai, ecco qua già. Gianni, ciao G, dai, fai chiamata dopo G, se sono qua, sono in macchina che adesso l'avrò acceso. Attenzione, binario 5, cambio. Hola. Attenzione, binario 5, prego. Hola, attenzione, binario 5. Ci sono, mi senti? Cambio, con il fuso per l'altro. Dimmi già. Ho letto più. adesso proprio mi sono disintossicato del tutto. Buonasera Toros, scusa già non ti potevo rispondere su questo, stavo salvando un PL. Allora te lo controllo di radio. La bella. Bella cosa vuol dire? No, non sono soddisfatto quando mi dici bella. Vabbè, vuol dire vabbè Claudio, cosa devo dire? Vabbè la radio, la tua voce. Ma l'amplificazione c'è, è forte o devo aumentare, cosa vuol fare? Va bene così per te? È anche troppo forte. Abbassiamo di un attacco, sto per collegare il microfono, mi ascolto, ma non mi piace la modulazione. Gianluca. Ciao Claudio, per me va bene, è la tua voce. Io ti ascolto benissimo qua, sono con gli AISU e va benissimo. Gappa, gappa, va bene, va bene. La tua banca sta andando già. Mi tocca. Stavo dicendo appunto che prima ero drogato di me e tu eri l'altro. Sì, ma basta il culato che abbiamo preso già. Allora basta. Ci hanno fottuto troppe volte e allora basta. Io ho comprato, guarda, una copia da un radiomatore di Firenze, la linea Lecraft, che mi aveva dato un trasmettitore, mi aveva dato Gianni Capri 2 in cambio di altre cose, e poi mi sono preso un'altra linea completa, mi è piaciuta moltissimo, diverso colore, questa originale grigia, quella che mi ha dato lui, la veneziata in nero, questa è proprio originale. E quindi sono andato bene, ma diversamente non compro più niente, perché intanto è una fottitura, capito? No, io compro solo dei negozi, adesso basta, non mi fido più di nessuno. Solo dei negozi in me, almeno mi manda uno scontrino, se non compro qualcosa la rimane indietro e via. Vedi, mi ha deluso un po' questa comunicazione che ci compra molto, ma adesso da quando ha cambiato tutta quella gestione, eccetera, eccetera, non mi pare più la stessa. Va bene, dai, allora continua a fare questa cosa, già, ti auguro buon trabacco, ora che ti sentiamo stasera, e lascio tutto così, allora, vai, Gianluca. Lascio tutto così e fai così, se mi interviene va bene, no, non ci sono problemi, ok, a te Gianluca più tardi, allora anche me tutto a posto qua. E già stiamo qua, non c'è problema, chiudi, fai quello che devi fare, e lo sappiamo, non c'è problema, Gianni, il prossimo anche nulla come sotto. Vabbè Claudio, siamo qua, con Corix, allora, facendo altro, con cui si ascolto, noi siamo qua a rotta. Riprendi, non si è sentito oggi Giulio, se stranamente perché sta facendo entrava, deve essere uscito oppure c'è qualcosa da fare. Io in verità sono qua, tanto da questo pomeriggio, dovevo uscire, a fare un giro, mi dopo pranzo lì. Allora ho detto, adesso mi sistemo questa roba qua, nel mentre dopo aggiunto da te. E va bene lo stesso, se devo pure cacciare la vita, e va bene, adesso da ancora no, dammi da una cosa all'altra, allora mi sono messo a guardare su internet e sono ancora attaccato a internet. Sono io il colpevole, già usciamo stanotte, allora adesso rimediati. Allora, no, mi va bene, anche perché la verità non c'è problema già, ma figurati. A me già mi fa piacere, quando sono... Oggi vado a prendere a rilassarmi, mica, già neanche di bisogno un po'. Ma stavolta ce ne usciamo. Devo andare. Porca un vivo, dai io. E per te che me ne buttiamo a B. A Chiamurì non mi sono convinto di bannuto a Namurì. Stavo sento mille modi per morire, non ho visto di macchina l'altro giorno. E allora... Per forza le porterà a vivere, a Chiamurì è più tranquillo possibile e meglio è. Più tranquillo è meglio è. Va bene. zappa, no? Mi deve durare mandare un coso, chiama 140 grammi, fate tutti i giri e passa, no? Però non vi mangia mica in voi, no? Mi dico una porzione, una piccanza, di quella pasta cucinata, fatta così, no? Poi una ciabattura e mangi un becco di pesce, sempre pieno. Ciao Gianluca. No, vi sto ascoltando, guarda, guarda, guarda, guarda. Ciao Gianluca, ciao Gianluca, Buonasera, Spaviere, ho fatto almeno mi ascolta, ho cambiato la canzone. non ci sono problemi, io ero qua già da poc'anzi, stavo facendo le prove, abbinando microfoni all'ICOM, sto andando col 7004 e stavo provando se gli abbinamenti andavano bene. Buonasera anche a te, ben ascoltato. Mi è sembrato buonanotte, avanti. poi chi c'è? Alessandro, se non erano, ciao Alessandro, Gianni Raizzi e Claudio. Ok. Intanto Claudio, subito un QTC per te, con la questione pronta. Vabbè, sorvoliamo. Per quanto riguarda la tua radio, sono d'accordo con Gianni, con Giovanni, è meno profonda, cioè praticamente l'altra era, aveva una punta di amplificazione. Questa invece sembra una radio compressa, buonissima, indubbiamente, chiarissima, la tua, la timbrica è quella, però manca di amplificazione rispetto all'altra. Avanti Claudio. Beh, se manca di amplificazione, quello non è un problema. Ciao Giulio, buonasera. Manca di amplificazione, basta dargli l'amplificazione. Ecco qua che ce l'abbiamo, l'amplificazione. Così è sicuramente molto, molto più amplificata, così. No, non c'è stata una grande miglioria, diciamo. Ripeto, la radio è ultima, non ci sono dubbi, però l'altra, quella di risulita che hai tu, non è quella, ecco. Positivo, infatti sto usando un altro microfono, vediamo un pochino salendo di compressione. Ma non lo posso usare l'MC60 perché l'ho messo su un'altra radio, Giulio, capito? E quindi non lo posso usare. Mamma mia, che casino, aspetta che abbasso queste. No, sto parlando, devo tenere tutto a zero, io se no mi perdono i soldi. Ho detto, vabbè, così comunque si può tenere, perché la timbrica è quella, diciamo, vai. Perché sennò devo tirare leggermente su il Mickey Gain, che è questo, vedi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, così è sicuramente molto più alta, no? Sì, confermo, così è più alta, sì. Sì, però non ti servirà la lente perché va benissimo, non bene, benissimo ugualmente. Dunque, è ottima, veramente, non ci sono problemi per conto mio. Riprendi e poi pensi tu a fare girare, vai. Ciao Giulio, non mi veniva il nome, scusami se ti ho rilanciato appena fatto il break, non mi veniva il nome. Niente, secondo me forse l'ha detto bene Gianni, Giovanni, da Itiri, perché allora io la sento molto bene questa qua e mi piace tantissimo. L'altra forse è più corposa, più corposità, più profondità di radio, tipo più imponente, capito? Prepotente, questa è leggermente più dolce, là. Adesso ho tirato su leggermente il Mickey Gain, allora questa è la compressione a zero e questa invece col compressore tirato su praticamente. Quindi lasciamo il compressore tirato così, questa la abbassiamo leggermente perché secondo me è troppo alta e questa qua la mettiamo così, dai, vabbè. Lasciamola stare così perché sennò poi è troppo alta e può disturbare. Avanti Giovanni, allora di Itiri con la Corriere, buonasera. Claudio Spargliera, a te cambio. Cambiamo Corriere, buonasera. No Claudio, no, non sta peggiorando, è inutile che alzi il livello di amplificazione. Allora, per spiegartela più brevemente, è come cercare, no, di far accelerare un appunto cercando la potenza di una Porsche, ecco, sta accelerando, però no, non è la stessa cosa, mi dispiace, no, non vorrei darti una delusione, però non è la stessa cosa, Claudio, rimane vuota, povera, si capisce benissimo, uno può anche dirmi che sto cercando il pelo dell'uovo, dimmi quello che vuole. Però è povera, come missione non è la solita, non è paragonabile, in senso di profondità, è questo il dunque. Sì, Sandro, avanti. Ok, allora, scusate un attimino. Ok, dopo buonasera Giulio, ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato. Sì, in effetti è proprio così, è proprio così. Ciò che ti dicevo, pianificazione, quella che solitamente tu hai in questo momento. Però ripeto ancora una volta, la radio è bellissima lo stesso, non ci sono dubbi, è ottima, forte, questo è da sottolineare, chiarissima, però manca, ripeto, quella amplificazione che Giovanni appunto la chiama profondità. In realtà è un po' di profondità che dà il microfono con una certa amplificazione, tutto lì. Ok, ti volevo dire, qua di nuovo QTC, quella storia è a posto, è pronta, perciò c'è solo da prendere una decisione, basta, tutto lì. Va bene, se vogliamo poi dammi da qua in merito, vai. Ok, allora questa qua invece è la radio field ed è anche troppo alta, quindi la diamo un pelino di abbassare appena appena, che è questa. Ecco qua, allora questo qua è 440 con 1160, quindi credo che avete notato una differenza enorme. Va bene. Sì Giulio, sì, scusa che non ti ho risposto, perché c'erano le cuffie e me le stavo togliendo e quando hai parlato praticamente non mi ero accorto, ok? Quindi questo è il 440 con l'MC60, non, secondo il vostro parere non si discute neanche. Hai un altro passaggio con l'altro, però in tempo reale, Claudio. Devo commutare, quindi devo avere un secondo, se mi date proprio, se fate la cortesia di non riprendere, io commuto automaticamente. Allora questo è il passaggio numero 1, quindi passaggio A, ci siamo, passaggio A della Kenwood. Adesso aspetta che mi preparo la commutazione così sono pronto e veloce. Allora questo è il passaggio numero 1, ok? Veloce di questo non potevo andare. Questo è il passaggio numero 2, va bene? Questo è il passaggio numero 2. Pare che ne hai messo un velo davanti al microfono, che hai fatto qualcosa al microfono, ecco, e in più non c'è profondità, quindi questo rispetto all'altro è completamente diverso, va bene? Allora io ho lasciato il volume com'era, sto ascoltando con le Sennheiser. È andato via un 35% della tua nitidezza delle frequenze cristalline, ma più che altro, ma neanche, sono le medio alte, proprio è il canale centrale, no, della voce, dovrebbe essere attorno a 1,2 kHz, 1,1 kHz, mi sembra quella, adesso non ho voglia di collegare l'analizzatore, altrimenti ti avrei detto il punto giusto, ma dovrebbe essere attorno a quella frequenza lì. Ok, allora, questo è da togliere, praticamente farlo lavorare in banda laterale come doveva lavorare, era solo una prova, e praticamente questo è il passaggio numero 2, ritorno al passaggio numero 1, questo invece è il passaggio numero 1, quindi c'è un abisso, così è. Dite, Giulio, che mi dici? Sono il migliore della Kenwood, quella, no, non ci sono dubbi, qua. Indubbiamente, ripeto, questa è un'ottima radio, veramente, però manca quel tantino di amplificazione, perlomeno sentendola così a orecchio, poi la strumentazione parla in un altro modo, però sentendola a orecchio io la sento più amplificata quella Kenwood. Che è questa qua, diciamo, dai. Va bene, purtroppo non mi posso allontanare da questa categoria io, non c'è niente da fare, è così e basta. Va bene, d'accordo, allora lasciamo stare questa qui e non se ne parla più. Era giusto una prova per così, tanto per capirci. Ok, allora microfono perché ho già lui. E questo qua è il 440, mitico 440 che si usa sempre nella 39. A te Gianluca. Vediamo un attimo qua perché stiamo, vediamo un po' come la sono attaccato. Ecco, fai la che dopo faccio anche quel passaggio. Stavo utilizzando adesso questa radietta, adesso mettiamo in moto anche l'altra radio, facciamo andare un po' l'altra, dopo mi darete voi qualche controllino, qualche consiglio di modulazione, nient'altro. Io quello che devo dire l'ho detto, mi ho visto lo parere, lo sentivo bene, quell'altra mi sembrava la solita, le 4.40, come avevo detto, abbiamo detto, insomma, per farla breve, più prepotente, più corposa. Avanti Sandro, che mi sembra che hai fatto il passaggio di radio. Tutto qua, va bene, allora lasciamo correre. mi ascolta Claudio, vediamo se lui mi sente sempre allo stesso modo. Io Claudio sto parlando sempre con quel microfono dinamico e col patch, col 166, il finalone qua non c'è altro, in questo momento 63-4 in uscita, avanti qua. Ottimo, ottimo, sì, 9-20, il tuo segnale è normale, la radio è 5 perfetta, senza nessun rumore di nessun genere, già va, vai perfettamente bene, a te ancora. Ok, ti ringrazio. Sì, no, mi interessa quello effettivamente, mi interessa quello, vabbè, ognuno mira per avere dei risultati ed è bello per questa la radio. Ognuno deve avere i suoi risultati, l'importante è che sia un buon risultato, appunto, tenere qualcosa di positivo, perché poi sbordare la radio o fare casino non serve a niente. E lì ne abbiamo già parlato, appunto, e ci vuole un po' di esperienza, perché sembrerebbe una stupidaggine, ma specialmente con questo tipo di apparati, almeno con quello che sto dicendo io, che non c'è nessuna regolazione, o esci o non esci, avanti giù. Ok, sì, beh certo Giovanni, non è anche un brivido, anche a me la radio con un segnalone, come ti ho sempre detto, e la radio è l'ultima, no, non ci sono problemi, ottimo veramente quel finale, vabbè, un giorno me ne costruirai uno per me, vabbè, avanti. Alessandro, lo riprendi Gianluca? Non roba. Stavo dicendo a Gianni Raichini, come questa radio con questo segnale, Gianni, come la ascolti tu da te? Allora, la radio è pulita, bassa, non è una missione molto potente, il segnale verso 7 qualcosa, però ti sento bene. No, perché non è sta passata, allora, se basta, allora io posso fare questo, aumentare la tua di un altro quarto la radio, vedi un po' che si è migliorato. Stai mettendo a correre un empolino. Hai visto quelle moto e le start? No? Ecco, da così è fatto. Però non c'è spinta, capito? Va bene, com'era inizialmente. È inutile sforzare, non va. Ho capito, là. Così questo era giusto per farti sentire. Così adesso al massimo il bicchiere lo rimetto al normale, allora il microfono, comunque la mia passaggio della voce è abbastanza bassa, diciamo, il microfono tengo a distanza appunto di un braccio dal tavolo, non è che uso della voce alta, diciamo, di verticale, capito? Sto usando un tono di voce abbastanza moderato, tutto lì. Adesso faccio un passaggio e usiamo l'altra, così mi dirai un pochettino se è più forte. È positivo, l'importante è che non lo fai sbordare, perché non serve a niente saturare l'ingresso e neanche sforzarlo inutilmente, perché poi fa l'effetto contrario e non ha più profondità, non ce la fa più il moderatore, la sezione finale ce la fa proprio con lo su e senti questa si alleggerisce l'emissione, no? Si alleggerisce, al posto di andare in profondità si alleggerisce perché non ce n'è più, tutto lì. È un motore fuori giro, in poche parole, per farla più chiara. Giù, mi senti? Come non ti sento, altro che... Avete considerato che siamo in cerca di contorno di radio, la mia come è già. Sempre l'ultima, un attimino giù, che c'è qualcuno avanti? Mio Mondino con quella modesta di radio. Mondino sì, gliene frega niente. Guardate a Mondino, osservate. Liguria. Allora, su un cora di 23 canali ho fatto una piccola modifica, ci ho messo un quarzo, cioè una quartiera con dei quarzi, e mi sono collegato al commutatore dei canali e sono riuscito a farlo aumentare come numero di canali dal 23 sino al 37. Però il 40 non c'è, sino al 40 non ci sono arrivato, non lo so, forse saranno questo di quarti, che insomma, fatto sta, i quarti che avevo ho usato, quindi ho usato e sono riuscito ad avere oltre il 23, 24 e fino al 37. Poi, però mi dispiace che non c'è il 38, il 39 e il 40. Pazienza, vuol dire farò altri esperimenti. Riprendo e fai girare già. È positivo, no? E il Cobra era comunque un ottimo apparato, poi non so cosa, come lo stai allineando, cosa stai combinando, ma va bene, 37 si chiama un punto. Vediamo un mondino comunque, i mondini non ti ascoltano lì il Giulio, forse ti sente il Claudio. Claudio, senti mondino? Se non mi arriva un mondino, ma ci posso buttare tutte e 5 ore, qua c'è un mondino, buonasera. Sempre sentiti, no, non c'è problema, Giova, arriva sempre bene qua. Da un po' di tempo a questa parte mi arriva sempre bene, c'era un periodo che lo sentivo un po' bassino, ma adesso è sempre 5 a 9. Ok, avanti a te, Gianluca, riprendi. Guarda, se lo stacchi fai bene. Non ti do neanche il controllo, perché mi costa darti anche il controllo. Questo è un punto. Ciao Mondino, comunque ci riascoltiamo. Avanti ancora Gianluca. Giù e su. E voi anche giù e su. nessuno. Sono una squadretta di ferro, un mercato molto piccolizzato, quindi non so riuscire nemmeno. Li vendono, sono lunghe, ci sono diverse misure, anche 20 cm ci sono, e sono quadrate, proprio di una squadra, praticamente una squadra. Sono di larghezza 18, no, non meno 18, 15 mm all'incirca, no? E sono forati per poter mettere le viti, tu ci metti quelli negli angoli, potete ammazzare anche due, se no almeno li metti tutti e quattro e non se ne parla più. E quindi vuoi assai farlo praticamente? Ok, ci provo. No, perché avevo qualche dubbio, non volevo metterli giù lì, quelli in legna. Volevo fare fuori, laterali e metterli giù lì, però adesso non c'è testa, non tiene di testa e poi mi spacca tutto. Capito? Perché è una cosa particolare. Poi già, se avessi avuto un email ti avremmo dato la foto. È carino, è veramente bello, tutto fatto ginico ginico. E quindi metto gli apparati sopra, lo sposto dove voglio e niente, almeno finché non arriva qui il banco, poi vediamo. Però non lo voglio perdere, capito? Anzi, me ne voglio fare un'altra ancora, figurati. Perché è troppo comodo giù da spostare. Solo che ha questo problema, cazzo, che oscilla. Va bene, dai, ci provo. Tento addirittura, tento dal centro prima, con due. Poi ne metto due sopra e se non basta anche due giù, là, ne prendo un po'. Va bene, buon proseguimento giù, grazie ancora del consiglio. Non ti dico di giocare, non ci manca il dato. Sì, non ti dico di incollarlo perché tanto sicuramente o è verniciato oppure il materiale dall'amico e dunque non incollerebbe, se no bastava incollarlo con un sinti naturalmente e poi una volta che si asciuga la colla non si muove più, però sicuramente è verniciato, perlomeno è rivestito in qualche maniera come materiale dell'amico, allora niente da fare, la colla lo attaccano, allora l'unica soluzione sono le squadrette dietro, tutto lì, Giovanni. Ok, riprendi, fai girare tu, vai. Ok, no, infatti ecco, proprio così, rivestito di una, come fosse plastico, non lo so, la roba apposta proprio per poterci mettere su dei pesi e poterlo spostare l'antigrafio, il materiale, non so, va bene, poi già ti farò vedere qualche giorno se incappa. Bene, ok, niente, riprendi Claudio se ci sei, se no Gianluca, noi ci ascoltiamo più tardi, io sto uscendo, ciao a tutti, ciao. Ok, ciao Giovanni, ciao, avanti qua. Gianluca da Porto Torres, sono una sua condizione della radio. questa, ma se mi ha detto qualche cosa nel tasto del microfono. Ma dicevo che non c'è problema, basta capire tutto, va bene. Ok, Bino, ok, al 100%, stavo andando molto bene qua, nessun problema. Ma ancora male mi senti? Ho sbagliato la modulazione, poc'anzi, forse stavi sentendo Gianluca, confermi? No, assolutamente, vedi, ti posso assicurare che è tutto a posto qua, tutto in ordine, poi me la tu come mi senti Gianluca? Scappa di notte, al 100%, adesso sono ritornato con quell'altra radio, ecco, vediamo un poco come mi ascolta adesso Birillo. Io Giulio ti sento benissimo, c'è problema. Il problema è mio che c'è mezzo agli altri, ne hai capito? C'è problema, riesco a copiarti bene, tranquillo. Sei un 4-5, ok? Ok, sabato. Ottimo per la truppa, la tua modulazione. Bella. Molto bella, chiara? Non ci sono problemi, io ti ascolto benissimo qua, considera dove sono io, che siamo a 30 km di distanza l'uno all'altro, di conseguenza, poi tra l'altro tu sei anche sul mezzo, e allora il discorso è quello, tra un albero e l'altro ci può essere un po' di depressione, ed ecco che ci può essere anche della modulazione un pochino passata. Va bene così, avanti Gianlu. Ma Sandro è andato via perché non ho sentito più a Sandro. Sandro? E Gianlu, l'abbiamo chiamato più volte, poc'anzi, ma evidentemente si è dovuto allontanare. Ah, ecco, ho capito. Allora, stanno cambiando radio, sì, ma dopo era entrato. No, sinceramente non ho capito se si è allontanato oppure non lo so. Sono entrato, A fra. Ok, arriva. C'è Virillo che è vicino in direzione di Palmadola lì, con la vettura. Ecco, io allora me lo mi sento. Radio Virillo, mi ascolti? Ragazzi, con me lo mi sento. Avanti, Giulio. Ok, niente che sente. Evidentemente fra gli alberi adesso lì, perché lui sta transitando lì tra Palmadola, o meglio, tra Alghero e Fruttiglia, in quella zona lì. Attenzione, Salvatore, ha ascoltato Franco da Sorso? Ok, io comunque continuo ad ascoltarti molto bene, non ci sono problemi, Bino. No, è entrato anche Franco da Sorso, ti saluto io da parte sua perché non l'ha sentito evidentemente, ma forse perché eri in una zona un pochino chiusa per lui. Vediamo, adesso te lo rimando di nuovo avanti. Avanti Franco, padre Salvatore, si trova a 2 km da Palmaro, vai. Massimiliano Bulldozer, buonasera a tutti, non ho fatto ascolto, non so chi ci sia. Ciao Massimiliano, qui ci sono io, c'è Franco, poi c'è Gianluca e Bilbo che è in strada, che sta rientrando verso Palmadola, qualche chilometro da Palmadola, uno o due chilometri da Palmadola. Poi ci dovrebbe essere anche Claudio in quella di chi si ascolta, che sta lavorando, che si sta zuffando con un microfono, si sta zuffando sicuramente, questa è la mia interpretazione, però non sono sicuro se stia facendo quello. E poi chi c'era? C'era Alessandro, ma Alessandro è sparito, boh, riprenderà, non lo so, ma è materia per chi vuoi. È positivo, guarda. Saluta Franco, allora, ti saluta anche a te Giulio, Claudio, se si mi ascolta. Non so se mi ascolta di Birillo, però un po' più lontano. Birillo, mi ascolti? Ehi, a positivo, ciao Salvatore, buonasera, ben ascoltato, va. Massimiliano Bulldozer, qua un po' più rapido, vediamo un po' se riesce a tirarmi fuori. È positivo, Salvatore, comunque già ti ascolto, no, non ci sono problemi, ok. Franco, mi ascolti tu? Ma te benissimo, ti aspetto. Io Birillo, lo ascolto lo stesso. Se lì magari è zona negativa per me, conosco anche io una zona che fa quarta quella, e potrebbe essere anche zona negativa per la parte mia. Ma non so se mi ascolta, Birillo, mi senti adesso? Ehi, capo, dai. Ogni tanto tu ti abbracci, ti alzi, quello è il coso. pronto. Cioè, Sandro, abbiamo detto che non si sa se si è allontanato in stand by un attimino. Vediamo un po' così Vicente Birillo ancora a me e rilanciamo subito per Massimiliano. Negativo, deve essere, non mi ascolta più a me. Avanti Massimiliano. Ma lui, buonasera, non ho ascoltato, scusa se mia figlia mi stava dicendo qualcosa. Sì, va bene, a te ti ascolto, perfetto, va. Ok, riprendi Gianni. Io non c'è problema, siamo qua, non c'è problema. Allora, vediamo un pochettino cosa ci offre qua il mercato. Stavamo curiosando su eBay, l'abbiamo tutto sfogliato, adesso andiamo su subito e vediamo cosa c'è. Ogni tanto ci passiamo il tempo, oggi visto che sono a riposo ne approfitto durante la settimana, già mi tocco poco e niente di questa roba. Sento tempo zinendi, deve essere di San Radio, guarda che cosa a me, perché si mi stava facendo questo problemino, ma stavo usando fino a poco fa, me lo giuro. Stavo andando fino a poco fa e dopo ho detto adesso parlo con questa, perché questa qui effettivamente non la uso, da quando ho preso l'altra questa qui non la stavo più usando, capito? Io ho capito Gianluca, ma togli una curiosità, ma per caso quello che stavi usando poc'anzi è qualche apparecchiatura valvolare? No, trasensorizzato. No, non è valvolare, questo valvolare sarebbero stati più complicati per me, capito? Perché lì devi fare il preaccordo, secondo che radio è, devi far scaldare le valvole, prima di trasmettere, tante cose. Mi avrebbe durato ben poco in mano. Sì, ma no, io no, perché non ho avuto un'idea, ma se a tubi questa radio probabilmente la valvola finale che stava partendo, no, allora lo dico subito, sicuramente è un problema di microfono che stavi usando, o con quella radio lì, perché lì le cose sono due, o il microfono che non andava molto bene, o perlomeno non c'è un abbinamento buono tra quella radio e il microfono, capito? Gianluca, tutto lì, però ripeto, il resto c'è, il segnale c'è, la potenza della radio c'è, solo che la ballerina era una mitragliatura, come si faceva? Vabbè, dai, comunque, ha posto lo stesso, avanti Franco. L'altro giorno sì, ma adesso è una bella radio veramente questa, io non so se sta usando la stessa, ma non credo, boh. Sì, sempre la stessa. No, siccome gli ho messo quelle cuffiette, gli ho messo, no? Adesso, come vedete che non vanno bene queste? Non lo so, per me questa è una bellissima radio, guarda, nella mia zona approssimativamente c'è anche Massimiliano, ti va a confermare lui come ti sente, vediamo Massimiliano, come lo senti a Franco? E va Franco? Fatemi così, a vedere com'è questa radio qua. Ecco, adesso faccio un altro passaggio veloce e mi tolgo la cuffietta a vedere com'è. Ecco, adesso ho sentito la cuffietta, ha cambiato niente. Allora, da parte mia non ha cambiato assolutamente niente, ma proprio niente. Per me Radio 5, segnale quasi 9:20, va benissimo per me. No, era solo perché l'altro giorno mi ha detto, proprio Giulio, che sono entrato e stavo cercando una persona, veloce, e mi aveva detto che non era la mia solita radio, e per quello era là. Sì, io confermo, l'altro giorno mi ricordo che ti avevo detto qualcosa sulla radio, però c'era la differenza allora, quella volta c'era, adesso no, adesso è la tua solita radio di sempre, insomma, ecco, quella buona, quella perfetta, niente da dire, anch'io confermo, segnalone qua, è Radio 5 perfetta, la grande, avanti Gianluca. Sì, perfetto, adesso io praticamente sto usando la stessa radio, però lo metto sul microfonino. Per me questo microfono per vedere se fa ancora questo di turno. E io ti faccio rispondere a Massimiliano, io sono sempre nella solita idea, ma Massimiliano. Ma io devo essere sincero, Gianluca non ascolto tanto bene. Sì. Allora ho toccato qualche cosa qua che non me ne sono accorto, vediamo poco, manca 1, 2, 3 prova. 1, 2, 3, ma non è che questa cosa qua, per tanto, Mi vedo bene, scusate un attimino. Guarda, Gianluca, devi lasciare la radio, facevi prima. Quella là sta andando benissimo. Questa, quella che hai messo adesso, non va bene. Ok. Ma come mai? Perché la stai vedendo fino a poco tempo fa? Fino a poco minuto fa, prima ancora, che dico? Ma stiamo scendendo male, sta andando male, sta andando. Poi il microfono che va male, oppure la radio. No, è proprio fuori, capito, Fra? È proprio fuori, sei fuori, Gianluca, non sei uscito per niente bene. Sei tutto pasticciato, sei fuori frequenza, non lo so. Fermo, confermo. Io ho subito capito che l'ora ha cambiato, ma ti volevo il controllo da parte di Massimiliano, che siamo nella stessa zona. Io ripeto, Gianluca, io ti sento fa'perato, così ti sento io, non so cosa dirti, guarda. Sto qui di presenza? Prego, sa se questo è vero, perché io qui, perché io sono lasciato in questa panicchia, dunque non ti posso dire, né sì né no. Però ti sento papperata la radio, e non è più quella di prima, ecco, quella di prima era bella, era abbastanza buona, chiara, bella. Questa no, questa è tutta pa, io ti sento così. Non ho capito per quale motivo sta facendo. Dimmi lei, dimmi una lira, confermi che è così. A te, ti ascolto in FM, ti ascolto a te. Una, due, tre prova. Guarda adesso la signora. Adesso la faccio intorrare. Adesso sono tornato. Sto facendo per riprendere e mettere il microfono a tavola, raga, un attimo. Ehi, cambia il microfono perché quello non va bene. Positivo, confermo. No, non era neanche in FM, Fra. Era proprio fuori frequenza, tutto impastato, tutto pa, così. Non si può prendere nulla di quello che stava dicendo. Ecco, allora adesso invece come sono? Tornato tranquillamente? No, allora, da parte mia sei sempre uguale, non è cambiato assolutamente niente. Ah, ecco. Allora mi sto ascoltando. Allora vi metto quel microfono, un secondo, vediamo un poco. Aspetti. Allora, 1, 2, 3, prova. Allora Gianluca, ma lì il problema non è il microfono, lì è il problema che è la radio che è così, capito? Perché, allora ti spiego, il microfono può essere nasino, può essere barattoloso, può essere tante cose, ma lì c'è proprio fuori frequenza, è la radio. Confermi, Giulio? È là. Sì, confermo Massimiliano, sì. Per me è messo male. Io riprovo con un microfono di poc'anzi, quello bello, quello che funzionava come si deve, Gianlu. Ho capito, mi ricordo, due, tre, prova. Ma non ho capito perché stavo utilizzando fino a questo tempo qua e andava bene. Un disastro proprio quella. Pensa che sta diventando sempre peggio, ma su di là. Ma lì era c'è la pesca. Aspetta un attimo, lo proviamo a passare appena fuori. Aspetta. Dove lo faccio delineare? Ma cosa c'è tutto qua di nuovo? Scusate. Vediamo un poco com'è adesso. Ciao Giampaolo, salutoni, ben ascoltato, Giulio da questa parte. Vai Giampa. Un attimino perché non me l'era accorto. Aspetta, ecco, così ho fatto questa lavorazione, ma non me l'era accorto, mi dovete spiegare. Scusate che ce l'avete detto, no? Scusate, perché l'avete male. Io sono qui a mettere fin quando non mi dà più la... Ecco, perché c'è questo. Perché il lavoro sono rimasto prima la potenza, ma la radio era calda. Cosa succede? Quando questa cosa è fredda, esce male. Adesso è migliorata la radio. Cavolo, ma io mi sono preoccupato, ho detto, ma stavo usando fino a poco fa e dopo si è raffreddata. Vediamo un po' cosa mi dice Massimiliano. Facciamo entrare il saluto a Giampaolo anche. Sì, positivo, allora salutando anche Giampaolo, Gianluca, questo passaggio va bene, così sei perfetto. Nulla, nulla. Ciao Gianpa, grazie per il tratto. Niente, il discorso era della potenza, era in saturazione la radio, ho aumentato troppo la pelle senza accorgermene. Niente, dai. Capito. Un'altra cosa che adesso devo tenere in considerazione quando faccio il passaggio che uso questa qui, dopo vado a usare l'altra, questa qui nel mentre si raffredda dopo bisogna abbassare l'amperitensiometro. Positivo, comunque dai, questo passaggio sta andando perfetto. Ok, Giappà, buonasera, ben ascoltato, ben entrato, a te il microfono. No, ma già sono così queste cavolo di radio, queste cavolo di radio sono così queste miseria, ma dove me ne ricordavo la verità, però già parlo di me, adesso è la due, è certo così. Allora, sono così va bene, così adesso mi sto ascoltando anche meglio di cuffie, la verità, sì sì, era vero, è vero. Allora, ci sono andato Giulio, Massimiliano, Gianni e Natalia, Gianni di Vittori. Scusate, riprendo io. Massimiliano, mi devo sentare, è venuto mio fratello e con mia cognata. Se vanno via subito rientro dopo, dai, ci sentiamo. Ciao Massimiliano, grazie per essere entrato in frequenza e per il piccolo corsio che abbiamo fatto. Ciao Franco, salutoni. Ciao Gianluca e ciao Giampaolo. Alla prossima, dai, se mi libero subito o già rientro, dai. Riprendo Massimiliano, c'è mio fratello con mia cognata al piano di sotto, mi hanno chiamato, dai. Ok, va bene Giulio, buona serata e buona continuazione, ci sentiamo le prossime. Ciao Giulio, avanti qua. Ciao Giulio, dai, buon proseguo con tutto, ce la aspettiamo per la prossima. Avanti Gianluca. Raga, ciao Giulio, ma dopo cosa mai si coincide. Avanti Silvio. Positivo Giampa, tutto a posto e come si dice, niente in ordine. Sono arrivando abbastanza bene qua, Radio 5, Santiago 9 più 5, va benissimo. È positivo, ma quanto ho sentito il telegiornale già fa, il freddo, mi sa che dica da domani riprende, dice, il freddo dalla Russia, mi pare che arrivi, boh. Sì, gli arrivi, a domani era malumendo, nel momento di vera si bucava. Non lo so, non sono ancora uscito di pomeriggio, finito stamattina già fa. Però ho acceso la sua perché oggi sono veramente, questo ha fatto un po' di freddo, ho messo dalla mattina a controllare, a vedere la temperatura, un secondo ci mette. Vabbè, non c'è problema, Franco. Ma la tenda ti hai messo più su, ti hai aggiustato cosa, come per occasione, no, già. Mi sarebbe già domani. Domani in Sardegna, pioggia, mani venti, sono molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse, alta carattere di rosso e temporalesco, temperature stazionarie, un lieve diminuzione, venti deboli nei quadranti occidentali con rinforzi nelle aree centrali della giornata, mari mossi con molto ondosi in aumento, quindi domani abbiamo del lavoro, anche della calumore. Oggi è arrivata la nave, la nuova nave della Tirrenia, c'avevo una striscia rossa, non avevo mai vista questa nave così. Avevano detto che mettevano le linee nuove, tutte le navi nuove. E così stavano dicendo, chi è? Oggi due giorni. Oh, signore, riprendo io, vi devo lasciare un secondo che non va lontano della radio, magari riprendo dopo, va. Ciao Gianluca, ciao Franco e ciao Giampaolo e Crucinine, magari riprenderò forse coincide, va. Un saluto per le sculture, ciao ciao. Ciao Masmeria, ci ascoltiamo per le Crucinine, buon proseguo di serata, ciao ciao. Avanti Gianluca. Allora, ciao Massimo, un secondo già passato, quindi veramente ti hanno detto io sei ritornato. Sto scherzando, ciao. Ciao Massimo, alle prossime. La maggioranza per lo sosteneva si è dissolta. Ma questo dollaro sembra una cosa che non si può dire. Sì, sono questo dollaro. Cioè non gli avevo curiato. Come se l'avevo accusata, come se a febbraio, ma per una bella stagione. Si può boccare i timoni, non può boccare anche per funziona in un altro modo il discorso elettorale. Sì, non si può vedere. Dove mi c'ha partito? Scarica di musica? Se lo dite già per le galocche, trattenendosi. Le galocche, trattenendosi. Non dico che l'abbia stato in casa, lo grazie. Ma no, perché io ho immaginato una commissionina, bello, ma giuro. Non mi dovrei dire di viaggio romano, romano già si è ben visto, no? Ma va, mi vedo mica di viaggio domandata, però. Si c'è anche le acque per mettere sulle cappe, ho capito che quello sì, sì, lo so, lo conosco per cosa lì. C'è un mixer che rimane dentro la cassa, dentro la scatola, come si fa? A quale? Quale fa dice vero? Ma il suo più grande tutto il personale, già fa. Era vecchio, era giusto sorrendo. Ciao bello beccia! Oh, no, no, avanti fra! Sì, ciao! Sì, no. Di quei... Già fa! Ma ti sente poco, io? Forza, tu vuoi il microfono! Hai fatto bene a dirlo, ora che fai la notte allora oggi, Ehi capo. sono scappata, dai. Che sei già fatto? Ragazzi. Ma che dirai, chi che tu dirai? Supposo che va... aspetta, non faccio mai chi? Ha capito, se volete ancora portare, allora già fatto. Va benissimo, se lo usare dentro una camera, giampa, dentro una casa, no? Se va bene se lo usare, fa una durata fuori, non anda lei. E giusto per trattarlo in casa, che hanno usato a Capodanno, così. Ma non il tuo, no, quello che stai dicendo in testa, è più piccolo del tuo. Oggi la cosa è bella diversa. Ma di lui è già subito, se la verizzai, ma... Sì, ho capito che quando ce l'ho avuto io lo vendo io e ce l'aveva per casa. Si divertiva, ma capito, vai. Ma ha fatto una girata per collocare una cosa, non lo so, così si verrà più agguanta, lì. Si verrà a fare 2 euro, 3 euro di staccato, lo metto. Quello lì, capito, papà. Poi ci c'era, no? Ma il tuo è diverso, il tuo lo ricordo, tu sei più grande. Cioè, grande tuo, non è pagato nessuno tu. Già fa, infatti. No, quello è un po' di luttamento, vabbè, uno lo può. E tu hai l'idea, non hai di usare una cosa, ci puoi svegliare l'idea di usare l'altra, sono tutti di vista. A me già, io ho fatto proprio così come si vede quando si chiama giù, la verità, è tutto. Ma tu devi mettere le proposte, mi sta dicendo già fa. Poi mi sta dicendo la Marco lì, ma devi stare adesso. Ma la giunta, ma sono la giusta di la mia rosaglia. Sì, una volta avevo fatto la figlia, una figlia, molto raduno, era una figlia. Ma questo signora mio.